mi sul lumbar, mi sul lumbar, e al lumbar che gireni bal. Dopo la laurea super veloce del figlio di Bossi, cresce la rabbia degli albanesi. E basta con questi fannulloni italiani che occupano le nostre università. Tu signore!